Allora, siamo alla serata India Bestia al Locomotive, siamo in compagnia dei Cassandra. Voi venite da Firenze, giusto? Esatto, siamo sì, un'oretta e siamo venuti qua. Bravi, quindi siete probabilmente quelli che vengono da... no, forse siete più lontano, no, stasera, però insomma avete fatto un po' di strada. Ci raccontate un attimino quando è nata la vostra band e un po' cosa avete fatto in questo periodo, insomma, dalla vostra nascita? Ok, allora sì, diciamo il progetto Cassandra è nato praticamente quest'anno, l'anno scorso, con diciamo l'esperienza di X Factor. Venivamo già da un progetto, però era Elevra, che avevamo già suonato, fra l'altro, quindi è un po' una marcord qui al Locomotive. E quindi nulla, poi c'è stata la pandemia di mezzo, quindi ha complicato un po' tutto, ovviamente l'uscita eccetera. Abbiamo trovato Mescal, che è stata per noi una cosa fantastica, e è una cosa fantastica, e quindi nulla, è uscito il disco, siamo in giro, e quindi nulla, dai, siamo fogatissimi. Fantastico, tanto passiamo a... stavamo parlando col chitarrista, parliamo col batterista. Come si chiama l'album, intanto, se avete altre date in programma anche? Allora, l'album si chiama Campo di Marte, che alla fine prende il nome da un quartiere di Firenze a cui siamo stati molto affezionati, perché ci abbiamo vissuto, è stato scritto poi tutto quel disco lì, che poi ha avuto una gestazione molto lunga e ora nessuno vive più a Campo di Marte comunque. E le prossime date sono... ora facciamo pausa a Pasqua, e Ferrara il 24. Ferrara il 24, poi Firenze il 30, e poi abbiamo, mi sembra, il 14 maggio. Sì. Seguiamo i social comunque dei Cassandra. E ultima domanda: una canzone da estrarre dal vostro album, da far ascoltare alla radio, insomma? Ma guarda, a parte i tre singoli, ovviamente, i quattro singoli, ovviamente, però la canzone a cui siamo molto affezionati noi è Campo di Marte, appunto, che dà poi il nome al disco. E quindi Campo di Marte è la canzone che forse ci rappresenta di più, e quindi Campo di Marte. Perfetto, allora Campo di Marte dei Cassandra Sia, grazie mille ragazzi. Grazie a voi, un saluto a tutti e a tutte.